dove sei? Il mondo in te è sceso in Kuwait, il comunismo non va più, la Jugoslav si uccide di più, qualcosa in Russia più non va, il povero Gol più non ci sta, per questo mondo una canzone che la soluzione forse ci dà. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. L'Albania in povertà, scappiamo in Italia, ma c'è crudeltà. Quante le strade della nostra città, in ogni angolo un vuoto compra, grandi concerti, la gente che spinge, è tutto finito, ci sono le siringhe, e mi ricordo ancora quella canzone, e la soluzione forse ci dà Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. Sesso, droghe, rock and roll, quella è una vita che io non ho. Dove finisce la nostra vita, se ce la giochiamo con una partita, la luna, le stelle, il cielo ed il sole, viviamoci sotto con tanto amore. Ma è sempre in mente quella canzone che la soluzione forse ci dà. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te. Gesù Cristo, Cristo ritorna, in questo mondo c'è bisogno di te.